momento difficile, lo so, però è meglio musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno a tutti, questo è Il Cammino e io sono Gigi D'Agostino e quindi il cammino è il mio. Però buongiorno. A cosa? L'avevo già detto. Eh sì. Vabbè, sbagliato. Dove è andato? Oh, vieni un po' qua, te. No. Che faccia brutta che hai. Giorno, ore 18. Certo. Frequenza, benevolenza. M2O. Devi lasciar prendere dal passo, passo, passo e imboccare quel sentiero che ti indica il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo. Sto cammino di Gigi D'Agostino.

6467662. Prova a risolvere, ma non ammalandoti, ma confrontandoti. Qui, se vuoi, puoi fare la tua protesta contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Scrivi qui Il cammino di Gigi D'Agostino, 333-6467-662. Fai sentire a tutti le tue imprecazioni. E ma porca la bastarda. Non così, meno. E ma porca la bastarda. Neanche così, leggermente meno. Gina mi ha lasciato una troia. Leggermente meno, non siamo al frantoio comunale. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. M2O. Doha, Togi e si estava. Togi e si estava. Cammino e Gigi D'Agostino si fanno una viaggiatina fino a Messina. Ci vediamo lì. La spiegazione ve la do adesso mentre sto qui, ma poi noi ci vediamo lì. Con le musiche e le storie suonate da me. Vieni anche te. Ore 22, credo. Per maggiori informazioni sui due eventi siciliani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom. Oppure www.gigidag.com. Vai nel forum e comincia a cercare. Se non trovi, ti fai aiutare. La spiegazione è finita. E viva la vita. Stop and talk to you. A little help from the moon. Only a few words I will say. e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Se questa musica vuoi ascoltare, se questa musica vuoi ascoltare, se questa musica vuoi ascoltare, su M2O ti devi sintonizzare. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Che dici? Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Con furore. Sì, vabbè. Il DJ del nostro cuore. Bogacci via questo. E ascoltando del cammino dalla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino. Tu sei Gigi, tu cammino. Questi passi del cammino sono Gigi D'Agostino. E ascoltando del cammino dalla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi D'Agostino. Questi passi del cammino. Tu sei Gigi, tu cammino. Questi passi del cammino sono Gigi D'Agostino. E ascoltando del cammino dalla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino. sei Gigi Dobunino. Questi passi del cammino sono i Gigi D'Agostino. La differenza la fa chi balla, chi balla, chi balla, chi balla, chi non si muove una palla. È vero, è vero. Come se ti sta bene a casa, vai. Ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Passi, passi del cammino. Questi passi del cammino sotto i Gigi D'Agostino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino, tu sei Gigi D'Agostino. Questi passi del cammino sono Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, mica noccioline. Oggi già, oggi già, oggi già, oggi già, oggi già, oggi già, oggi già. Dove è andato a finire il vocalist? In mezzo all'universo c'è un uomo assai diverso. Lui è Gigi D'Agostino e questo è il suo cammino. E questo è il suo cammino. Il cammino. E questo è il suo. E questo è il suo. E questo è il suo. E questo è il suo cammino. E questo è il suo. E questo è il suo. E questo è il suo. E questo. Basta! Ecco. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Pink my head.

dire aver incontrato te. Il cammino di Gigi D'Agostino. M2O. M2O. Frequenza, benevolenza. Frequenza, benevolenza. Per il resto della vita serba nella memoria le cose belle che sono sorte nei momenti di difficoltà. Esse saranno una prova delle tue capacità e ti infonderanno fiducia dinanzi a qualsiasi ostacolo. Manuale del guerriero della luce. Paolo quello che scrive. Quello lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino.